Il diario di Q. Anversa. 3 settembre 1550. Lodewijk de Schalidecker, alias Eloysius Pruistink, alias Eloy, di mestiere copritetti, imputato della diffusione di libri eretici, di negare sostanza a Dio, di negare il peccato, di sostenere la perfezione dell'uomo e della donna, di praticare l'incesto e il concubinaggio. Arso sul rogo come eretico il 22 ottobre del 1544, insieme a molti membri della sua setta, cosiddetta dei Loisti. Il suo nome appare più volte negli annali delle autorità anversane, associato a quello di David Joris, Johannes Denck, e di alcuni notabili e ricchi mercanti locali. Già negli anni 30, diversi suoi seguaci e fiancheggiatori furono arrestati. Nonostante le umili origini, Pruistink è stato uno dei perni dell'attività anti-ecclesiastica ad Anversa, ma inviso anche ai luterani. Fu processato e condannato a una blanda pena nel febbraio del 1526, su delazione di Lutero, che dopo averlo incontrato a Wittenberg, scrisse alle autorità di Anversa per segnalarne la pericolosità. Scampò la pena grazie a una ritrattazione completa e alle deboli sanzioni allora vigenti. Nel 1544 fu sottoposto alla tortura, affinché confessasse le sue pratiche e le sue idee blasfeme. Non riconobbe mai nessuno dei suoi complici o seguaci, firmando di proprio pugno la sentenza di morte. Sentenza controfirmata da Nicolas Büscher, domenicano, che ha raccolto le sue ultime deposizioni. Il tedesco che sto cercando è un morto che riempie un intero fascicolo nell'archivio dell'Inquisizione di Anversa. Il morto oggi è titolare di un bordello di lusso a Venezia. Il tedesco che sto cercando ha attraversato queste terre negli anni della rivolta anabattista. Anversa, 4 settembre 1550. Nicolas Büscher oggi è il braccio destro del padre inquisitore di Anversa. Una quarantina d'anni, alto, magro, lo sguardo di chi ha avuto tra le mani i destini degli uomini. Mi ha accolto con cortesia, ha ricordato tutto senza false reticenze, i particolari di una vicenda incredibile. L'eresiarca di Anversa era persona astuta, colta, capace di tessere un'ampia trama di relazioni, tanto con il volgo quanto con i notabili della città. Ancora oggi molti lo considerano un martire e un eroe. Se al porto fa il nome di Eloy, la gente ancora sorride. Eloy il Copritetti era un eretico molto particolare. Negava il peccato con un'arguzia difficile da demolire. Sembrava voler costruire il paradiso in terra. Riusciva a ottenere che ricchi artigiani e mercanti condividessero i loro beni e proprietà con i plebei. Un maestro dell'arte del raggiro e del convincimento. I suoi seguaci ad Anversa vivevano assieme nelle proprietà messe a disposizione dai più ricchi. Nel corso degli anni, decine e decine di uomini e donne sono passate dalla comunità loista. Eloy accoglieva tutti, non importava da quale disavventura fossero reduci. Un eretico molto particolare in contrasto con le frange più estreme sanguinarie dell'anabattismo. Ciononostante, più di uno dei fuoriusciti da Münster o dalle bande di Battenburg aveva trovato rifugio presso di lui. Da buon dissimulatore qual era, sarebbe potuto andare avanti a lungo se non avesse pestato i piedi alla gente sbagliata. Ciò che i verbali dovevano tacere. Una complessa truffa ai danni dei banchieri Fulgar. False lettere di credito, centinaia di migliaia di fiorini. Una cosa incredibile. Gli stessi banchieri facevano fatica a spiegarsi come. E il come ancora non è chiaro. Il mal tolto non è mai stato recuperato. Eloy aveva dei soci in questa impresa. Uno era un mercante tedesco di nome Hans Grub, scomparso nel nulla. I Fugger non potevano permettersi che la faccenda divenisse nota, così hanno bussato alle porte dell'Inquisizione. L'ordine di intervenire contro i loisti giunse addirittura da Roma. Non tutti sono stati presi. Si suppone che molti siano fuggiti in Inghilterra. Di reduci e munsteriti è difficile dire quanti ve ne fossero tra le file dei loisti. Uno certamente è morto qualche tempo fa in carcere. Era Balthasar Merck. Di altri non si conosce il nome, non tra quelli arrestati. Lo sconosciuto mercante tedesco socio di Eloy. Un colossale raggiro ai banchieri dell'imperatore. Soldi mai recuperati. Un bordello di lusso a Venezia. Stratega della dissimulazione. Reduci di Münster, il bambino e la statua. Tiziano, l'anabattista.